Allora, abbiamo ripreso la nostra agenda della settimana teatrale romana, non andiamo in diretta, ma comunque in forma registrata e siamo sempre noi. Io con Simone Nebbia di Teatro e Critica, caro Simone, ben ritrovato. Ciao a tutti, non devo dire, non devo fingere di essere in diretta, Non no? sei in diretta, non fare la faccia da diretta. No, ok, allora aspetta, cambio perché avevo preso questa. Ok. Allora, senti Simone, per la settimana, ma anche un po' oltre, io ho fatto una serie di interviste che manderemo in onda dopo la nostra agenda e ti dico subito che ho sentito Ilaria Drago per presentare il suo progetto Migrazioni, cambiare la fine senza confini, Antigone non muore. E poi Spiro Scimone per lo spettacolo Il Cortile che sarà all'Off-Off Theater dal 6 al 18. E poi l'attrice Laura Nardi che sarà con Io Obietto al Teatro Biblioteca Quarticciolo il 9 e 10. E poi Riccardo Goretti che sarà con Gobbo Ammattoni, che abbiamo ospitato anche al Radioteatro, al Teatro Studio 1 a Roma dal il 9 e il 10. E poi Eleonora Danco, Ero Purissima in Co, Off-Off Theater, data secca lunedì 12 febbraio. E questi sono e gli artisti che abbiamo sentito e che ascolteremo dopo in registrata. Benissimo, allora beh, io vado ad integrare con qualcosa della settimana. Comincio con due cose che restano rispetto alla settimana precedente, ovvero sia il Lampedusa di Anders Lustgarten, fino al 18 febbraio sarà al Teatro Piccolo Eliseo con Donatella Finocchiaro e Fabio Troiano, la regia di Gian Piero Borgia, ed ha a che vedere chiaramente con gli sbarchi a Lampedusa di migranti dal Mediterraneo. E l'ACI, uno spettacolo che invece ha a che vedere con la famiglia e con la coppia, moglie e marito e tutto ciò che ne compete, e da un testo, da un romanzo di Domenico Starnone, che sarà invece in scena alla Sala Grande fino all'11 di febbraio. Questo per ciò che riguarda il Teatro Eliseo, e insomma, quindi i spettacoli che restano per la settimana in corso. Invece ti porto al Teatro Argus, dove c'è un debutto dal 6 di febbraio fino al 18, ci sarà Torella con fratello, il testo di Alberto Barzetti, in scena Alessandra Fallucchi e Alessandro Averone, un altro Alessandro Machia sarà invece alla regia di questo spettacolo. Giusto e sbagliato, per te è tutto chiaro, la legge decide, ma non per me, io non ci credo. Questa è una parte del testo, una donna trentenne rinchiusa in un istituto di correzione, nel quale, giunta quasi dal termine dei 10 anni da scontare, può usufruire di uno spazio per sfogare la propria passione per il canto durante le visite quotidiane del fratello. C'è però chiaramente una vicenda più tragica, una vicenda lontana nel tempo, che si svelerà all'interno di questa storia. Quindi, fin dal 6 al 18 di febbraio al Teatro Argo Studio per andare a vedere Sorella con fratello con la regia di Alessandro Machia. Poi, questa settimana andremo anche a vedere Lina Sastri con gli appunti di viaggio al Teatro San Umberto Sì. dall'8 al 18 di febbraio. Lina Sastri, grande cantante, attrice italiana, insomma, porta questi appunti di viaggio, una sorta di biografia in musica che lei scrive e dirige con 5 musicisti sul palco, una sorta di racconto libero della propria vita artistica dal debutto con Edoardo Patrini Crispi, insomma, alle grandi parti con altri grandissimi del teatro e del cinema. Nina Sastri, interpreta Nina Sastri, racconta Nina Sastri medesima al Teatro San Umberto dall'8 fino al 18 di febbraio. Sì. Dunque, invece, poi andiamo anche al Teatro di Roma, Teatro India, per andare a vedere Amedeo Fago, Le ceneri di Taranto dall'8 all'11 febbraio. C'è un secolo di storia ripercorso da questo testo, una storia italiana attraverso le storie di una famiglia, da Caporetto fino ad oggi, ecco, insomma, un po' lontana nel tempo, per arrivare alle ceneri, dalle ceneri di una famiglia fino alle ceneri, le polveri dell'Ilva di Taranto. Quindi un testo che, insomma, ha una forte connotazione sociale e politica, civile, ecco, lo chiameremo così, e lo andremo a vedere al Teatro India dall'8 all'11 di febbraio, a Venerofago, Giulio Pantiglione in Decennio di Taranto. Poi, Poi. al Teatro delle Apparizioni, Fabrizio Pallara, che porta il suo ritratto d'artista al Teatro di Roma, e in questa settimana, poi seguiranno altri spettacoli nelle prossime, sarà la volta delle fiabe da tavolo dai 4 anni in su, anche per adulti. Io l'ho visto, il Teatro delle Apparizioni si occupa espressamente di teatro per l'infanzia. Al Teatro Argentino andremo a vedere il 10 e l'11 febbraio alle ore 16 e alle ore 11. Assolutamente da non perdere per chi avesse bambini da portare, ma anche chi ha dei bambini dentro da portare al teatro. Ok. Poi io continuo se vuoi. Come no, vai avanti. Vado avanti, allora andiamo nell'altra sala del Teatro Studio 1 per vedere la compagnia Matros con Core 8-11 febbraio. La coreografia e la regia di Lisa Rosamilia. Se c'è la musica, ci sono delle videoproiezioni. È uno spettacolo che è una suggestiva performance di danza e qui guida dal vivo da Daniele Casolino. Sì. Perdonami. Ovviamente la danza eseguita dal vivo da Lisa Rosamilia, intendo le musiche e le videoproiezioni, sono curate e eseguite dal vivo da Daniele Casolino e hanno a che vedere con la stratificazione, lo svelare. C'è una danza che disegna immagini e forme e attraverso un costume di scena che muove si trasforma e svela negli strati i personaggi e si scopre così la coscienza della capacità di mutare che ha il corpo. Quindi il Teatro Danza approda al Teatro Studio 1 dall'8 all'11 di febbraio. Ancora Ok. spazio diamante per andare questo weekend 9-11 febbraio per vedere Il Corpo Giusto, la regia di Marcello Cotugno sul testo della drammaturga statunitense Eve Ensler, in cui esprimere con ironia le voci di tutte quelle donne in cerca di una nuova consapevolezza. Quindi un tema forte, soprattutto in questo periodo, anzi sempre più forte come in questo periodo, per vedere appunto Il Corpo Giusto, testo di Eve Ensler, 9-11 febbraio, allo Spazio Diamante, regia di Marcello Cotugno. Poi. Allora, abbiamo anche un altro qui, eh? Attenzione, ci guardiamo. Dove si nasconde? Ecco. Oh, andiamo al Teatro di Roma, ancora al Teatro Argentina, in questo caso all'India, per vedere i sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello e la regia di Luca De Fusco, ormai regista, cioè, piuttosto molto affermato, regista di lungo corso, protagonista, un altro grande attore del teatro e del cinema italiano che è Eros Pagni. Sicuramente molti dei nostri ascoltatori ricorderanno tantissime apparizioni. È una sorta di spettacolo duplice, per metà teatrale e per metà cinematografico, in cui le figure reali e visibili a occhio nudo sono riprese da telecamere proiettate sulla scenografia come giganti onirici. Quindi ecco, in questa intuizione, è un'intuizione speciale, dall'opera di Pirandello, i sei personaggi in cerca d'autore saranno un po' proiettati. Cioè, vivranno anche in contatto con delle proiezioni. Ci sono tantissimi attori, mi piace, ne cito qualcuno, come Gianluca Musi, Ugalia Aprea, Maria Basile Scarpetta. Insomma, sono tantissimi gli attori che hanno a che vedere con questo spettacolo e ci sono anche gli allievi della Scuola del Teatro Stabile di Napoli, un paio di allievi, perché Luca De Fusco è anche direttore del Teatro Stabile, del Teatro Nazionale di Napoli. Poi ancora al Teatro Vascello, Resta il Gabbiano di Anton Cechov con la regia di Emanuela Kusterman, scusami, con la regia di Giancarlo Nanni, che Emanuela Kusterman ha In scena. ripreso dopo tanti anni, dopo 20 anni, e con lei stessa in scena come allora, quindi uno spettacolo storico questo Gabbiano di Cechov che sarà al Teatro Vascello fino al 18 di febbraio, quindi ancora un po' per vederlo. Vediamo un po' se c'è qualcos'altro che affascina la settimana teatrale. Beh, probabilmente sì, è il caso di andare anche al Teatro Quirino per uno spettacolo che sta in scena solo questa settimana, Intrigo e Amore. È il Teatro Stabile di Genova che si propone dal 6 all'11 febbraio questo lavoro di Friedrich Schiller e la regia di Marco Sciaccaluga. È insomma, uno spettacolo ambientato nel 700, nella Germania preromantica, quella dello Sturm und Drang, per capirti. Il nobile Ferdinand si innamora, ricambiato, della borghese Luise, che è figlio di un violoncellista. Ovviamente il padre del giovane cerca di ostacolare l'unione, di convincere Ferdinand a sposare la favorita del principe per ottenere una promozione nella loro nobiltà. Questo testo è stato scritto da Schiller nel 1783, aveva solo 24 anni ed è la storia di questo legame profondo, impossibile, una grossa passione indomabile tra un uomo e una donna. Andremo a vedere al Teatro Quirino dal 6 all'11 febbraio. E direi che siamo un po' alla chiusura del nostro spazio. Sì. Non è una settimana particolarmente piena, evidentemente, però è appunto l'occasione per dedicarci a queste poche cose e farlo però con attenzione. Oh, tu per un paio di settimane mi lasci? Ok. Ti lascio perché vado a vedere un po' che teatro fanno a Cuba. Ti hai creduto, vero? La scena contemporanea cubana, certo. Andiamo a vedere un po' questa scena contemporanea cubana, cosa Bene. offre. Ok, allora avremo una tua voce sostituta, ci penserai tu, e a questo punto buon viaggio caro e ci sentiamo al ritorno. Un abbraccio a tutti. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Siamo in collegamento telefonico con Spiro Scimone che sarà insieme a Francesco Sframeli e Gianluca Cesale in scena a Roma con lo spettacolo Il Cortile all'Off-Off Theater in Via Giulia per la regia di Valerio Binasco dal 6 al 18 febbraio. Allora, Spiro, intanto benvenuto. Grazie, grazie, un saluto a tutti. Raccontiamo un po' di questo spettacolo, di cosa si parla. Questo spettacolo è uno spettacolo che abbiamo messo in scena, debuttato nel 2003, ha vinto il premio UPU nel 2004 ed è uno spettacolo che continuiamo a proporre perché continua a essere molto attuale, infatti viene richiesto e rappresentato sia in Italia che all'estero. Il Cortile. E quindi nel cortile praticamente ci sono tre personaggi, sono Peppe, Tano e Uno. Questi tre personaggi vivono in un luogo di rifiuti, quindi sono delle persone che vivono ai margini, degli emarginati, ma queste persone, pur vivendo in queste situazioni estreme, non perdono mai la loro dignità. Ecco, la bellezza di questo spettacolo è che grazie al rapporto umano che si instaura tra i tre, queste persone riescono a vivere anche in situazioni molto difficili. Spiro, qual era stata l'origine di questo lavoro? Ma guarda, come tutti i nostri lavori della compagnia Scimone Sframeli, i testi che scrivo io che vengono rappresentati da me, da Francesco, in questo caso anche da Gianluca, nascono tutti da un'attenta osservazione del quotidiano, della realtà, ma naturalmente poi assumono tutta una valenza teatrale perché il teatro ci dà la possibilità di andare oltre la realtà. E quindi queste persone, quest'idea nasce dal bisogno di dar voce agli uomini, alle persone che non riescono purtroppo ad essere ascoltati nella realtà. Noi attraverso il teatro abbiamo questa possibilità, ecco, di dar voce agli emarginati. Ed è molto importante perché poi è straordinario quando proprio per questo il teatro è meraviglioso perché ti dà la possibilità di far ascoltare le voci di persone che spesso nella realtà non vengono ascoltate. Per chi ci ascolta, raccontiamo anche un po' brevemente l'esperienza, della vostra compagnia. Sì, la nostra compagnia, la compagnia Scimone Sframeli, nasce esattamente nel 1994 con Nunzio, che è stato il nostro primo lavoro teatrale, lavoro inteso come scrittura, perché è il primo testo che ho scritto io. È stato molto importante questo spettacolo perché ci ha dato la possibilità di conoscere uno dei grandi maestri del teatro